Animati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. È stato per un ciclo di vittorie indimenticabili che finora non è stato ancora negli ultimissimi anni battuto. Io ricordo che la Ferrari dal 2000 ad oggi è la squadra che ha vinto di più. Devo ringraziare per il contributo che ha dato Jean Todt e devo ricordare un pilota straordinario, un pilota che più di ogni altro, devo dire, ha fatto la storia per certi aspetti di questa azienda con le sue vittorie, che è Michael Schumacher, con il quale abbiamo condiviso anni difficilissimi. Io mi ricordo nel 96 quando ruppe quel famoso semiasse in Canada, quando si fermò nel giro di ricognizione nella gara dopo a Magny-Cours. Mi ricordo allora già da Torino quante preoccupazioni, quante critiche, Schumacher, Todt. Poi per fortuna vinse a Monza, poi vinse a Spa e allora cominciò un grande, e Michael è stato eccezionale. Però è inutile guardare indietro. Ho trovato un po' di polemica in questo a Torino, quando successe quello, già le critiche eccetera eccetera eccetera. Sì, perché vi stiamo facendo sentire in diretta, torneremo tra un istante lì a Maranello, vi stiamo facendo ascoltare in diretta alcuni passaggi del divorzio che si sta consumando alla velocità della luce. 23 anni dal 91 a oggi pomeriggio, a questo momento. Non dimentichiamo che solo venerdì pomeriggio Montezemolo aveva smentito tutto, come d'altra parte profetizzato da Leo Turrini. Quattro giorni dopo sta ufficialmente dicendo addio, conferenza stampa a Maranello, accanto a lui il nuovo presidente della Ferrari, cioè quello anticipato in questo caso da Turrini, l'uomo con il maglione, Marchionne. Torniamo a sentire qualche parola di Montezemolo in diretta. Sono le nostre radici e continueranno ad esserci. Perché la Ferrari vuol dire una cultura, la Ferrari vuol dire una passione, la Ferrari vuol dire guardare avanti, come abbiamo cercato di fare in questi anni a tutti i livelli, organizzativi, tecnologici, il rinnovamento della fabbrica, tutto, ma mantenere saldi i legami con la nostra storia, la nostra cultura e la nostra tradizione. La Ferrari è fatta di donne e uomini eccezionali. Abbiamo un clima in fabbrica magnifico, abbiamo una grande collaborazione, abbiamo una dimensione giusta, abbiamo tanti progetti per il futuro che sono orgoglioso di lasciare, come una volta si diceva, i cassetti pieni, poi ognuno fa quello che vuole. Ci sono tutte le premesse per un rilancio di un nuovo ciclo in Formula 1 che va costruito, rafforzato. Quest'anno usciamo da un anno molto brutto, fondamentalmente perché abbiamo trascurato o sottovalutato l'importanza, la difficoltà di questo sistema di motore nuovo, che non è un motore tradizionale, e credo che questo sia il vero problema. Tra l'altro, con un regolamento che non ti permette, speriamo che cambi, sono fiducioso che cambi, di intervenire durante l'anno nel miglioramento. Abbiamo finalmente una galleria del vento che ci permette da qualche mese di lavorare nella nostra galleria sulla nuova macchina. E quindi credo che ci siano tutte le premesse, con un lavoro duro, per creare le premesse per tornare presto a vincere, come giusto, come necessario, come vorrei dire da parte nostra è doveroso. Per il resto, cosa vi posso dire ancora? Vi posso dire che, come ho detto stamattina nel comunicato, guardate, quando si lascia un'azienda dopo tanti anni, certi ringraziamenti sembrano formali, ma guardate che invece nella nostra azienda noi in questi anni abbiamo ampliato il perimetro, siamo entrati in nuovi settori, siamo arrivati qui che eravamo presenti in 28 mercati, oggi siamo in 62, abbiamo una range di prodotti, una gamma di prodotti come non c'è mai stata prima, siamo alla vigilia di un meraviglioso evento a ottobre in cui festeggeremo i 60 anni della Ferrari negli Stati Uniti, capito che stiamo vendendo moltissime macchine ed è veramente motivo di orgoglio quello di dare questo contributo a questo gruppo che va in borsa. Inoltre credo che se noi guardiamo avanti e guardiamo agli investimenti che abbiamo fatto, credo che oggi abbiamo anche delle macchine all'avanguardia tecnologica, tra quattro ruote motrici, motori turbo, tra il grande successo della Ferrari col motore ibrido, e quindi la Ferrari avrà ancora più forza, avrà ancora più forza. Adesso si tratta di lavorare sodo ancora da parte mia, il mio ultimo giorno di scuola sarà il 13 di ottobre, abbiamo il Salone di Parigi dove presenteremo la nuova speciale Spider e quindi c'è tanto da fare. Io vorrei finire salutando tutti voi, molti di voi li conosco da molti molti anni, ieri mattina con Sergio abbiamo visto questo meraviglioso filmato che ha fatto la Philip Morris per fare 40 anni di collaborazione con la Ferrari e ho visto dei momenti meravigliosi della vita della nostra azienda, ho visto dei momenti meravigliosi personali, uno dei più bei giorni della mia vita è stato quando ho vinto il mondiale da giovane, ero nella squadra che ha vinto il mondiale quando nel 75 a Monza vincemmo dopo 13 anni il mondiale di Formula 1 con Niki Lauda e nella stessa gara vincemmo la gara con Regazzoni. Ho negli orecchi la telefonata che per la prima volta ho sentito al telefono piangere dell'avvocato Agnelli nel 2000 quando dopo 23 anni Michael Schumacher vinse all'alba in Giappone il mondiale. Ho negli occhi la macchina che volevo dedicare proprio all'avvocato Agnelli nel 2003, la GI, mi ricordo quanta dicemmo ma facciamo bene o facciamo male, perché se poi non vince questa macchina cosa facciamo? E poi vinse. Dei momenti straordinari, dei momenti sportivi, una grande soddisfazione di lavorare con delle persone meravigliose, insomma io sono contento di lasciare un'azienda in queste condizioni, sono contento che ci siano tutte le premesse per tanta ulteriore crescita. Allora, questo il discorso di addio che vi abbiamo fatto sentire di in diretta di Luca Cordero di Montezemolo che lascia la presidenza della Ferrari. Avete sentito, 13 ottobre, mio ultimo giorno di scuola. Tra poco parlerà Marchionne, più tardi Enrico Pagliarini che è lì a Maranello ci racconterà tutto. Tutti convocati. Aspetta, è difficile, dai. E agghiacciante quello che dicono. Si fa vedere lì accanto Giaccherini. Doppio velo, Zazza in area di rigore, Zazza perde il tempo per la conclusione, poi lo trova Simone! Zazza! 1-0! E agghiacciante che un conte tecnico tattico. L'ultima, quanto è faticoso fare l'attaccante in una squadra di Antonio Conte che chiede agli attaccanti di stare sempre in movimento? È molto faticoso, ma d'altronde se si vuole fare bene, se si vuole giocare di squadra, ecco, bisogna correre, perciò è giusto così. Grazie Simone Zazza. Pallone proprio per Pasqual, posizione regolare, arriva in transizione pericolosa, il 2-0 con Bonucci, Leonardo Bonucci appena entrato, Pasqual ha messo in mostra quello che è il suo fondamentale principale, un grandissimo cross. Non possa vincere una partita col Catania senza che tutti sospettino che c'è qualcosa sotto. Il carattere del mister non lo scopriamo sicuramente dopo la partita di oggi, ma ce l'abbiamo bene impresso negli occhi e nella mente tutti quanti, anche quando era la Juventus. È il primo a trasmettere la propria rabbia, la propria determinazione anche a noi giocatori, e questo lo rende ben visibile anche in televisione a tutti gli italiani. E agghiacciante quello che dicono. non era semplice, era da tantissimo tempo che non vincevamo in Norvegia, sono sempre partite particolari queste, erano i primi tre punti, diciamo che in 9 giorni si è riusciti a fare secondo me delle cose importanti con questi ragazzi. L'ho detto ieri che ero sereno perché li ho visti lavorare, adesso dobbiamo migliorare, dobbiamo continuare a conoscerci e progredire dal punto di vista del gioco. Allora, abbiamo così riassunto la serata di ieri a Oslo. Franco Piantanida, il nostro autore, Claudio Schiattone in redazione, Roberto Scaltretti in regia, sta parlando Marchionne e noi ne parleremo più tardi di Ferrari dopo le 15. Intanto parliamo con Pardo. Ciao Pier. Come va? So che ho sentito che dovevi andare tu a fare presidente della Ferrari, ma avevi impegni. Sì, vero? Rifiutato. Mi piacciono le utilitarie, quindi sarei a disagio con la Ferrari. L'altro Montezemolo prima ha sottolineato anche che quando è arrivato lui nel 91 il New York Times titolava Ferrari in cassa integrazione, come dire, beh, qualcosa è cambiato. Senti, è cambiata anche l'Italia, mi pare. È una squadra di Conte, già nei gesti, nelle parole, in opere e omissioni. Sì, mia colpa, grandissima colpa. No, devo dire che ieri abbiamo visto un segnale incoraggiante. Io ero ottimista, poi ho detto ieri, è stata una partita simile a quella che mi aspettavo. Insomma, si vede già il marchio di un allenatore che io ho sostenuto dal giorno in cui si è dimesso dalla Juve come scelta migliore per la nazionale, e adesso tutti i giorni ve lo ricorderò. Poi proviamo a trovare qualcosa che non va, perderemo però. 2-0, no, non va, proviamo a trovare un difetto, non è possibile, no, cioè ci annoiamo mortalmente. La squadra di Conte ha avuto anche dei passaggi durante la partita nei 90 minuti non eccezionali, però insomma a me non ha mai dato l'impressione che potesse non vincere la partita, sinceramente, per cui questo è quello che ho visto io guardandola. Insomma, mi sembra che ci sia una come diciamo ieri, anche se fa ridere parlare di squadra proletaria, una scelta di questo tipo, in qualche modo la battuta che molti hanno interpretato anti Balotelli a fine gara sulla fame e la fama mi sembra abbastanza indicativa. La squadra di ieri sicuramente aveva fame. Zaza non soltanto non è, fino a qualche mese fa non era, diciamo, né Balotelli né Cassano né Gilardino, cioè uno assolutamente straconosciuto, ma non era neanche della fascia degli emergenti fino a Cercetto. Sì. Era anche dietro a Berardi, per dire, tanto per fare la stessa gerarchia sul Sassuolo. Un giocatore che segnava poco e che nella prima stagione in Serie A aveva un po' faticato. Però le qualità ci sono, Conte queste cose le vede. E non è momento di... Non siamo un po' poveri di talento? Ma guarda, tu hai visto le partite delle altre squadre? No, questa sì. Noi non siamo... No, questa squadra non è un po' povera di talento? Sì, però evidentemente Conte voleva partire dalla squadra e poi magari del talento ulteriore potrà arrivarci. Poi c'era la squalifica di Marchisio, non c'era Chiellini. Balotelli io non credo che sia un capitolo chiuso adesso, al di là di tutto, insomma, io credo che Balotelli possa ancora avere delle possibilità in nazionale, però certo questa squadra ha dimostrato di avere una fisionomia. E quindi il ritorno di Balotelli nazionale sarà possibile soltanto nella misura nella quale Balotelli si metterà a disposizione del gruppo e non farà come gli pare, come è successo in Brasile. Sì. Tanto per essere. Io sono perplesso sulle. Non lo chiama più. Ma non è che non lo chiama più, sono non perplesso sulle possibilità di vedere Balotelli in pianta stabile in una squadra di Conte. Sono troppo diversi, te l'ho detto, nel modo di intendere il calcio, secondo me. Cioè, Conte chiede ai giocatori cose diverse, cose che probabilmente Balotelli non riesce a dare, non può dare. Credo che vedremo probabilmente altri giocatori. Poi, sai, ci sono anche quelli che dicono: ma adesso chiama quelli della Juventus, Zaza, poi chiamerà Berardi, eccetera. Ci sono quelli che dicono ciò. Un ascoltatore che era scritto, dicevamo: ma cosa ci vuole per vedere Berratti in nazionale? Un ascoltatore, ovviamente, anzi, diversi ascoltatori ovviamente hanno scritto: beh, magari lo vedremo il giorno che andrà alla Juventus. Io non credo che sia così, però questo è un pensiero che circola, Piero, inutile far finta di no. Ma scusate, la nazionale ieri era molto juventina, cioè ci sono state delle scelte clamorose che che vanno in una direzione molto juventina. Allora, guardo il portiere Buffon, possiamo discutere. A difesa ci sono Ranocchia, Bonucci e Astori. Insomma, quindi sta facendo un regalo all'Inter e un regalo alla Roma, oltre che Bonucci, cioè, non lo so. A centrocampo gli esterni. Ranocchia era lì perché c'è Oriali. Ma no, Ranocchia gli piace. Ma sto scherzando. No, ma io voglio dire che finché noi andremo avanti con questa teoria della... il punto è, io non dico che bisogna fidarsi di Conte perché Conte sia, non è il premio Nobel della bontà o un latinista fine, è però una delle persone con la maggiore cattiveria agonistica in senso buono, la maggiore voglia di vincere che io vedo in questo momento nel calcio italiano, e quindi se fa delle scelte le fa unicamente nel suo interesse, che by the way, come dicono gli inglesi, in questo caso coincide con il nostro, che è quello della nazionale, per cui io non credo assolutamente che la scelta di Verratti, dello schierare Verratti, sia legata a questo tipo di discorso. Su Verratti, ragazzi, è un talento molto molto importante, e probabilmente in una squadra tatticamente un po' diversa potrebbe avere più possibilità. Certo, ieri era una grande occasione, perché senza Pirlo sembrava una grande occasione. Ma poi ha chiarito in maniera molto precisa Conte, no? Prima della partita, nell'intervista alla RAI, ha detto: ok, Verratti, Pirlo, De Rossi, uno di questi gioca, soltanto uno. De Rossi può arretrare sulla linea dei difensori, che la trovo una soluzione limite, perché non è bravissimo in quel ruolo, ma non è il suo ruolo, nella Roma non gioca in quel ruolo, insomma è una soluzione che può essere emergenziale, però gioca uno solo di questi tre, poi vuole due mezzali che corrono e che si inseriscono, e dunque non c'è spazio. Magari lo troverà per Pirlo, non credo per Verratti, se Pirlo conferma la sua intenzione di tornare in azzurro. Senti, adesso vedo però, a meno che De Rossi non venga fatto fuori dall'Otito, no? Giaccherel sul punto. Ma lì sai, è che De Rossi quello che pensa dice, questo è il motivo per il quale... Cioè, dice queste cose, queste qui, le facciamo sentire. Sono fatte cose. Tante polemiche, tante parole sulla presenza di Lotito, tu cosa hai da dire? Ma devo dire che, come ha detto il mister, cerchiamo di parlare il meno possibile discorso politico. Poi ci sono dei fastidi miei personali, non vuol dire che siano di tutto il gruppo. Se io preferisco avere meno gente possibile dentro gli spogliatoi, intorno alle zone di calcio, soprattutto gente che insomma deve stare lì. Mi dicono che è giusto che alcuni di questi consiglieri siano lì. Speriamo, ho visto che sono 21, speriamo che non vengano tutti e 21, se no non c'entriamo più su pullo. Questa non è male, Lotito ha risposto, però io non sono un consigliere federale qualunque, quindi De Rossi stia muto e allineato, perché se no ci sono quelli della Juve che richiama Conte, quelli dell'Inter che richiama Oriali e quelli della Roma che li fa fuori Lotito. Qui ci sono però due problemi. Uno, un tema è lo spazio sacro degli spogliatoi, e sappiamo bene che c'è una soglia, tutti gli allenatori ti dicono che c'è una soglia che riguarda soltanto la squadra, che può essere varcata soltanto dalla squadra, dal team manager e dall'allenatore, punto. Perché è uno spazio chiuso nel quale certe cose devono anche rimanere in certi momenti, dove i dirigenti devono rimanere necessariamente al di fuori. E poi, quindi questo è il tema numero uno, e poi c'è il discorso Lotito, che chiaramente è un dirigente esuberante, è un dirigente che ha appoggiato Tavecchio in maniera molto forte, è un dirigente che era stato osteggiato in maniera molto chiara e molto precisa, o meglio, la candidatura di Tavecchio era stata osteggiata in maniera molto chiara e molto precisa dai giocatori soprattutto di Juve e Roma, sì. E maliziosamente sì. I vari Preziosi e Lotito avevano fatto notare che erano stati i propri giocatori di Juve e Roma a esprimersi così, e quindi c'è anche un tema, diciamo, più dietrologico, più politico. Il principio di fondo è indiscutibile, cioè il fatto che non ci debbano essere 21 consiglieri federali, ma neanche uno che entra nello spogliatoio della nazionale, questo credo che faccia parte. Ma io ribadisco, poi torniamo sempre a Conte. A me non sembra che Conte è un uomo che si metta a fare i compromessi e questo no, però è stato chiamato ad accettare una situazione che è imbarazzante. Prima della borsa ti leggo questo messaggio di Luca: comunque con Tavecchio esportiamo il gusto del bello e dell'alta moda italiana per il mondo. Non so se si riferisce alla polo arancione con cui si è presentato allo stadio l'altro giorno in campionato. Si riferisce, io credo, al siparietto di ieri con la coppola. Era un'immagine abbastanza, tra l'altro io l'ho vista, c'era l'audio spento in quel momento, c'era l'audio basso, e immagine molto divertente, cioè, diciamolo poi. Sembra Nino Banfi, mi dice Roberto Scaltretti dalla regia. Concordo. C'era di tutto, no? C'era i vari Fantozzi, sì, che ha fatto Palo, insomma abbiamo visto cose divertenti oggi, però non ci facciamo mancare niente, ma siamo qui per divertirci, d'altra parte siamo qui per divertirci, mica per altro. 800 24 00 24, se ci chiamate ci divertiamo anche di più. Dopo la borsa con Pierluigi Pardo. Partita non facile, giocata a ritmi elevati, speriamo che dalla ripresa diminuiscano. Comunque una partita importante per la qualificazione, per noi se è buona la prima andremo avanti bene. Tutti convocati. Diciamo che un tipo va, è venuto qua, che prima mangiava le banane e adesso magari gioca titolare nella Lazio, che tra l'altro con tutti quegli optivo bar, diciamo, quel coso fuori, che sono svantaggiati nella corsa, un po' come i nani, che sono come le donne un po' handicappate rispetto all'uomo, che poi non è vero, perché poi in Figicina abbiamo verificato con mandato delle integratori, che beh, noi abbiamo dato un incarico importante in Figicina, una donna, una grande lavoratrice, lavora come una filippina, però non ruba. Questo è il presidente federale, Carlo Tavecchio. Avete riconosciuto tutti, no? Sì. Mm-hmm. Le opinioni si dividono invece sul ruolo di Lotito in nazionale. Secondo alcuni, mi è arrivata una mail secondo cui Lotito serve comunque, ha una funzione importante, cioè il traduttore dal latino all'italiano. Un altro ascoltatore scrive: se lo lasciano fare, chiederà lo ius prime noctis. Io lo dico in latino, ha scritto diritto di prima notte alle mogli dei nuovi convocati. 800 24 00 24 è il numero verde. Massimo da Genova è il primo ascoltatore di oggi, venite a trovarci, prego. Buongiorno, porte aperte, grazie. Fino alle 16, dica. Grazie per la convocazione. Volevo dire, io sono un po' un testimone della Formula 1, nel senso che ho visto il più grande duello della Formula 1 tra Gilles Villeneuve e René Arnoux del 79 di Gione. C'ero. Volevo dire che praticamente accolgo un po' con favore questa decisione di Marchionne. Sinceramente avrei preferito Briatore, perché ero convinto che se Briatore l'avessero messo a gennaio, penso che ad aprile avremmo vinto il mondiale. Ma non credo. Briatore, io sinceramente penso, perché se non ci lasci entrare certe persone che rovinano un po' tutti gli ambienti, tutte le parti, si vince il mondiale. Sì, la Ferrari è molto distante dal vincere il mondiale in questo momento. È chiaro che anche questo, di questa vicenda di Montezemolo, è un addio traumatico. Certamente non era previsto, non era programmato, è frutto di stagioni sbagliate. Il nome di Briatore è stato fatto da più parti, non credo che lo vedremo a breve alla Ferrari, proprio come non credo che vedremo a breve Balotelli in nazionale, tornare in nazionale. Cosa stavamo dicendo, Pierluigi? Ho perso il filo. Lotito. Ah, già, giusto. Lotito, lo spogliatoio, entrare non entrare, giubbotto Montgomery. È agghiacciante. Allora, Platini, cioè, sai che c'è a Roma, c'è la conferenza dell'UEFA Respect Diversity. Tavecchio non si è presentato, mentre parla Andrea Agnelli in qualità di relatore, è stato invitato a parlare Andrea Agnelli. Platini ha detto su Tavecchio, sto leggendo insieme a te questa agenzia che mi ha girato Franco Piantanida. Dice Platini: ha provocato stupore e riprovazione con le sue dichiarazioni, l'istanza disciplinare deciderà in merito, non io. Questa la dichiarazione di Platini sul presidente federale. Tornerei invece alla partita di ieri sera. Dicevamo prima della scoperta di Zaza, no? Il nuovo, l'esotico, viene da domandarsi ad esempio perché la Juventus abbia preso Morata. Aveva Zaza in casa. Morata lo andiamo a scoprire, però quello visto in queste due partite, soprattutto ieri sera, sembra assolutamente un buon giocatore. È arrivato Ciccio Graziani. Ciao Ciccio. Ciao ragazzi, ciao. Grazie per avermi convocato. Ma grazie a lei. Dai. Tutto bene, ciao Pierluigi. Ciao bello, sto bene. Ciao. Allora, visto che c'è anche Ciccio Graziani, vi faccio sentire cosa ha detto Bonucci ieri sera. Quanto spazio c'è per Balotelli in questa nazionale? Mario sicuramente avrà visto le partite e rimane il fatto che sia un grandissimo giocatore. Se fa quello che gli viene chiesto il mister, credo che in questa nazionale possa diventare un punto di riferimento. Il problema sta a lui capire se vuole diventare un giocatore importante per questa nazionale. Deve capire che c'è bisogno di correre, di sacrificarsi 11 dietro la linea della palla, sia quando attacchiamo che quando difendiamo. E dunque questa da parte di Bonucci per Balotelli. Mi fa notare giustamente Piantanile che non solo Zaza ma anche Immobile, coppia offensiva che poteva essere quella della Juventus, no? Certo. E chiami Morata. Vabbè. Ciccio. Sì, eccomi. Mi fai il gioco delle punte, convocane 5, fai scegliene 2 per la nazionale italiana. Beh, le due che ci sono, destro. Osvaldo e Balotelli in questo momento. Sì, e fai giocare titolari chi? Le due di ieri sera? Allora, io tecnicamente Balotelli ritengo che sia superiore, però il Balotelli che dico io, non il Balotelli a volte svogliato, il Balotelli assente o con poco entusiasmo. In questo momento credo che Immobile e Zazzara incarnino un po' lo spirito di tutti noi italiani, di chi ha fame, di chi ha voglia di emergere, di chi ha voglia di diventare protagonista. Sì. E questo in questo momento credo che stia facendo la differenza su Balotelli. Sì, quindi Balotelli con? Balotelli, io Balotelli Immobile è la mia coppia preferita ai recenti mondiali, quindi poi Prandelli non mi ha dato ascolto, pazienza, ma io... Infatti hai visto che fine ha fatto? Io con coppia fissa davanti Balotelli Immobile, anche perché Balotelli si gioca con qualcuno vicino e io ho giocato tanti anni attaccante insieme a dei compagni straordinari, meravigliosi, di avventura, e ti trovi anche meglio perché ti distribuisci anche le responsabilità quando giochi davanti, no? Uno viene incontro, l'altro va lungo, l'altro va sul primo palo, l'altro va sul secondo. Da solo Balotelli ci siamo accorti che faceva una gran fatica, quindi Immobile sarebbe stato un toccasana per lui e per la nostra nazionale. Pardo, d'accordo? Noi Immobile e Balotelli ce l'abbiamo avuti contro l'Uruguay, non è che sia andata benissimo, però insomma probabilmente 45 minuti sono pochi per poter dare un giudizio definitivo. Io credo che la vera notizia è il modo nel quale tutti i giocatori non facciano 0-0 quando devono parlare di Balotelli, cioè mi sembra che anche le dichiarazioni di Bonucci, per essere un calciatore, diciamo che i calciatori spesso non si cercano guai, anche perché poi spesso le nostre domande sono tendenziose, mi sembra che si sia espresso abbastanza in maniera abbastanza chiara, cioè evidentemente c'è un problema legato al tipo di contributo, alla necessità di correre e mettersi al servizio della squadra. Poi tecnicamente Balotelli ha dei colpi, sono d'accordo con Ciccio, ha dei colpi che probabilmente gli altri non hanno. Ma sei d'accordo con questa rosa di 5 attaccanti che ha fatto Ciccio Graziani? Sì, ve lo svaldo onestamente dietro. Quindi i due di ieri sera, destro, che a me, torno a ripetere, piace da morire, e Balotelli e Osvaldo. Sì, direi di sì, però magari metterei il Sharawi, al posto ovviamente recuperato. Secondo me in prospettiva può diventare, se torna quello di prima. Appunto, però il Sharawi ha giocato 200 e qualcosa minuti nella scorsa stagione, adesso una buona prima partita con il Milan, un buon precampionato, mi sembra prestino. Ma sono d'accordo, lui ha fatto un gol l'anno scorso a Eindhoven in tutta la stagione e aveva fatto l'ultimo gol della stagione ancora precedente a febbraio nel derby contro l'Inter, quindi è sicuramente presto. Detto questo, se parliamo di valore assoluto, per me il Sharawi è un giocatore che può anche diventare titolare in nazionale per la qualità che ha e per il talento che ha. Molto duttile. Ciccio, quindi, cosa dici? Un Immobile? No, il Sharawi a me piace tantissimo, certo che deve ritrovarsi questo ragazzo perché la stagione dell'anno scorso sotto tutti gli aspetti è stata altamente negativa, soprattutto per l'infortunio che ha subito. Adesso sembra che stia ritrovando la forma migliore. Certo, se il Sharawi sta bene, è un ragazzetto che a me è sempre piaciuto, ha dei colpi straordinari, quindi sicuramente tornerà a far parte della nostra nazionale qualora ritorni a giocare a certi livelli, su questo non ho dubbi. Convocati. Che numero! Allora, torniamo con sempre con Pierluigi Pardo, Ciccio Graziani. Una domanda per tutti e due. Stamattina ho letto, mi pare l'abbia scritto Sconcerti, che le scelte dell'orchestra nazionale sono obbligate. In questo momento ci sono una trentina di giocatori eleggibili di un certo livello per la nazionale italiana, e quindi da questo punto di vista una rosa di 30 giocatori è sostanzialmente una squadra di club. Siete d'accordo, Pierluigi? Sì, sicuramente sì, insomma, non vedo una grande notizia, nel senso che non credo che nel passato ce ne fossero 80 o ce ne fossero 10. Esatto. Però è vero soprattutto che Conte cercherà di dare, secondo me, un approccio il più possibile da club a questi ragazzi. Io però ribadisco, siccome per tutta l'estate era pieno di persone che dicevano questo è un allenatore soltanto da club, quindi da lavoro quotidiano, il famoso martello, che poi alla fine il martello puoi fare pure su dei concetti magari più basici, più semplici, in 4 giorni di lavoro, in 9 giorni di lavoro, e comunque metterli in campo bene già aiuta, insomma. La nazionale che abbiamo visto in queste due partite con Olanda e Norvegia non c'entra nulla con quella delle ultime due partite brasiliane. Sì, ma la differenza sta soprattutto nella faccia, Ciccio. Nella faccia dei giocatori hanno un'altra faccia, hanno degli altri occhi e hanno anche un altro linguaggio del corpo, mi pare. No, ma su questo non c'è dubbio. Sai, quando arriva un allenatore nuovo, col carisma, la personalità, il carattere di Antonio, tutti si mettono in fila e fanno i bravi soldatini, mettendoci anche tanto entusiasmo, tanto spirito di sacrificio, tanta volontà, perché poi Antonio Conte lo conosciamo, quali sono le sue prerogative migliori, quindi in questo momento abbiamo una rosa ristretta, ragione Sconcerti, anche perché abbiamo purtroppo tanti stranieri che limitano la crescita a volte dei nostri giocatori italiani, però anche a ragione parte, anche nel passato, insomma, la rosa era ristretta sempre a quei 30-35 giocatori, poi gli altri non venivano, anche se c'erano più italiani, non venivano presi in considerazione. Sì, certamente. Sì. Però attenzione, diceva anche un'altra cosa giusta che io condivido, Pierluigi. In nazionale si seleziona, ricordiamocelo sempre, non si allena. Adesso Antonio molto probabilmente riuscirà ad avere i giocatori un pochettino più a disposizione, farà qualche stage in più rispetto a quello che non riusciva a fare Prandelli. Vediamo. Ma seleziona sempre, ricordiamocelo, seleziona sempre. Poi sono la qualità dei giocatori che noi avremmo nei momenti importanti a determinare la grande qualità o raggiungimento di un certo traguardo. Sì, poi vediamo, perché se glielo chiedevi 2 mesi fa di fare uno stage con la nazionale ti saltava la gola. Troverà duro, anche perché insomma in queste due prime partite siamo partiti benissimo, geometrie molto buone, grande motivazione, abbiamo visto questo. Voi pensate che Zazza fino a 4 anni fa, se non ricordo male, giocava in Lega Pro, quindi sì. Questo significa che in Italia ci sono i giocatori, ci sarebbero i giocatori, bisogna andarli a trovare, a farli crescere, a dargli maggiore fiducia rispetto a quello che non riusciamo in questo momento a capire noi, certo, come club. Ciccio, ti chiedo ancora una cosa, perché è un argomento del contendere di questi giorni tra me e Pardo. Buffone e Pirlo ancora in nazionale oppure sarebbe meglio di no? Io dico questo, la carta d'identità purtroppo sbiadisce per tutti, è successo per me, credo che succeda anche per Pirlo e per Buffon. In questo momento, per far crescere chi gli sta vicino, cioè io credo che Verratti, per crescere in questo momento, abbia bisogno della vicinanza di Pirlo, come credo che Sirigu o chi per lui abbia bisogno ancora della vicinanza di Buffon per crescere, fermo restando che in questo momento Buffon e Pirlo sono ancora nettamente da nazionale, ci mancherebbe. Poi Buffon ha un ruolo che gli permette addirittura di arrivarci in età ancora più avanzata, però servono anche come punto di riferimento per far crescere quei giovani e quei giocatori che sono nell'orbita già della nazionale, quindi va bene. Quindi per Ciccio Graziani, Buffon e Pirlo ancora, lunga vita a loro. Grazie Ciccio. Un abbraccio. A tutti voi, ciao ragazzi, ciao. Riconvocatemi, mi raccomando. Certo, ti tu, quando vuoi, sei sempre convocato. sei convocato tutti i giorni, proprio di default. Ciao Marco da Milano, buongiorno. Pronto, buongiorno. Dica. Buongiorno. Mi sente? Sì. No, niente, volevo parlare degli allenatori di Conte, che comunque mi dà tante soddisfazioni. Prima lo odiavo, io sono milanista. Adesso sono contento che è in nazionale, perché veramente fa correre i ragazzi e e non convoca Balotelli per il momento, io spero. Volevo parlare del talento. Ho sentito che lei all'inizio ha detto che il talento, c'è poco talento nella nazionale, dicono, non so chi l'ha detto. Io in questa, nella nazionale, in queste due prime due uscite, in questa formazione, non ce n'è tantissimo. No, volevo dire, però in Brasile ce n'era un po' di più, però abbiamo visto che il talento. E poi volevo chiedere, secondo lei quanto conta un allenatore a questo punto nella squadra? Perché si è sempre detto che conta poco. Quest'anno, cioè, vedremo con Inzaghi al Milan, Allegri alla Juve, conta nazionale, vedremo l'allenatore quanto conta, secondo me. Difficile dirlo, conta il giusto, deve essere, se è bravo conta di più, o no, Pier? Sì, secondo me conta. Io, con la vecchia teoria di quelli che dicono che l'allenatore non deve fare danni, che gli allenatori sono tutti uguali, io non l'ho mai condivisa. Secondo me gli allenatori, soprattutto nel calcio di oggi, sono decisivi. Perché ma non tanto dal punto di vista delle conoscenze tecniche, perché comunque a un certo livello gli allenatori sono quasi tutti bravi, ma dal punto di vista delle motivazioni, della gestione delle grandi personalità, ecco, lì fanno la differenza. Sì. E sono anche, e se hanno un po' di fortuna è pure meglio. Non ne ha tantissima Allegri, che sai che oggi ha perso Vidal 20-30 giorni, mica poco, dopo aver perso Pirlo per un mese, dopo l'infortunio a Morata ad inizio stagione, adesso Vidal fuori 20-30 giorni, vogliono dire pare che partita. Il ginocchio di Vidal è un po' sospetta, perché sì. Perché insomma c'era stata l'operazione, poi c'è stato il qualche spiffero, qualche problema, lui aveva qualche giorno fa, ricorderete, tranquillizzarlo tutti via Twitter, però insomma non mi sembra una situazione completamente risolta, quindi speriamo, ovviamente gli facciamo un bocca al lupo. Sì, in assoluto non mi sembra risolta neanche la sfiga di Allegri al capitolo salute dei giocatori, No, beh, sicuramente non è partito benissimo col problema di Chiellini, col problema di Vidal, però insomma io credo che la Juve nella prima uscita contro il Chievo abbia dimostrato che ha ancora quell'atteggiamento lì. L'atteggiamento lì forse non è soltanto quindi dovuto alla qualità di Conte o alla personalità di Conte, ma anche proprio agli attributi dei calciatori. Chiaro che più ne togli e più diventa complicato. Vidal è uno di quelli difficili da togliere perché fa la differenza, però staremo a vedere. 20-30 giorni non sono pochi. Comunque. Non sono pochi, quindi senza Vidal e senza Pirlo verso l'inizio della Champions League. Graziano, provincia di Pisa, poi salutiamo Pardo. Dica. Pronto? Pronto? Graziano, sono qui per lavoro a Pisa, ma non è un problema. Va bene. Volevo dire solo una cosa sullo Tito. Cioè, vederlo con la divisa della nazionale mi ha fatto, io sono tifoso del Bologna, non sono tifoso della Roma, però è veramente sono rimasto veramente male, perché un personaggio come lo Tito, cioè, non ci sta molto. Sì, ma è rimasto male perché è lo Tito o perché è comunque il dirigente di un club di Serie A e fa un certo effetto, è presidente di una squadra di Serie A, fa un certo effetto vederlo in panni federali, perché è lo Tito. No. Perché è lo Tito, chiariamo un punto. Fosse stato Galliani, ne sarebbe andato bene. Galliani, non lo so, uno che Galliani mi va anche meglio, Galliani mi va meglio. Cairo, va bene anche lui. Oddio, andare a scegliere il meglio. No, non so, sto facendo il meno peggio. Sto provando a capire. Però, io vedrei bene Pallotta invece con il giubbotto della Federcalcio, Pier. Beh sì, sarebbe Gemellaggio Italia USA, però è così, vedi che ci sono i due elementi, c'è un elemento oggettivo di opportunità e poi c'è un elemento personale, perché chiaramente lo Tito è uno dei personaggi più polarizzanti della Serie A fra i dirigenti, certo. Uno di quelli che o ti sta molto simpatico o ti sta molto antipatico, sono grandi via di mezzo. No, Massimo Ferrero, però tagliamo la testa al toro, vogliamo lui in campo con la nazionale. Ciao Pier, ti abbraccio. Ciao. Abbiamo GR, ma poi torniamo. 800 24 00 24, numero verde. Perché dicono che lei è troppo presente? Le dico subito da che cosa nasce questa esperta. Nasce dal fatto che io sono, insieme a Carlo D'Avecchio, la persona che vuole cambiare il calcio. Non a caso ho avuto, con elezione all'unanimità del Consiglio Federale, della delega delle riforme di carattere legislativo, normativo e organizzativo interno e esterno, e i rapporti istituzionali che sono funzionali chiaramente al cambiamento del calcio. Convocati. vicino c'è Giaccherini, sfila il pallone per Zaza, il sinistro che viene tentato da Zaza, la deviazione, il vantaggio dell'Italia, è il primo gol di Zaza con la maglia azzurra, un gol che sembra fortuito, casuale, perché probabilmente c'è stata una deviazione, ma dobbiamo sottolineare 1-0 per l'Italia. Florenzi di nuovo a cercare Pasquale, posizione regolare, il cross, il colpo di testa, il 2-0 dell'Italia, Bonucci, uno dei migliori degli azzurri, ha sfruttato un buco nella difesa della Norvegia, la prima opportunità nel corso del secondo tempo, l'Italia raddoppia, Bonucci. Mi ricordo di Buffon che si è sporcato i guanti, quindi invece mi ricordo comunque di situazioni sempre molto pericolose create da noi, dove potevamo comunque arrotondare il successo. Non sarà facile per nessuno venire a giocare qui in Norvegia, mi siamo stati bravi e sono molto contento. Sì, si può ricordare anche di un Conte ieri sera molto sveglio e molto lucido anche nella lettura della partita, perché ha visto Darmian affaticato, non una partita brillantissima quella dell'esterno del Torino, ha infilato nella partita Pasquale che un secondo dopo. Questa è fortuna, probabilmente, però sono anche fatti, ha piazzato il cross per il colpo di testa di Bonucci. 800 24 00 24, Lorenzo da Mantova mi scrive un sms: Balotelli non tornerà in nazionale finché andrà in campo come se fosse lui a fare un favore alla squadra, girovagando sterilmente per il campo. L'atteggiamento spesso di Balotelli è questo, l'abbiamo più volte criticato, sembra quasi uno che non prova più piacere a fare quel mestiere lì. Certe volte è vero, da questa impressione. Gioco per farti un favore, ma non è che mi diverto più di tanto. C'è un altro ascoltatore che scrive: ma i tanti infortuni che seguono Allegri ovunque vada non possono dipendere anche dal tipo di preparazione che fa fare? Non ho una risposta su questo. Certo è che al capitolo salute, Allegri non è un allenatore fortunatissimo. Poi l'infortunio a iniziale, quella Morata, non c'entra nulla né con la preparazione né con Allegri, perché è stato qualcosa di totalmente fortuito su un pallone inutile, una partitella di allenamento. Praticamente Morata si è fermato, Rubinho gli è uscito incontro e c'è stato un impatto di questo tipo tra un giocatore che era fermo e il portiere che era in una situazione dinamica. Normalmente in partita quella palla la insegui e quindi ci può essere un contatto dinamico di altra natura, in quel caso si è fatto male seriamente, quindi gli Allegri non c'entra proprio nulla. Però, infortunio muscolare a Pirlo, infortunio muscolare ora Vidal, vediamo cosa succede nel futuro. Sono due giocatori importantissimi, senza i quali la Juventus va verso le prime partite di Champions League. 800 24 00 24, dicevo, prima di andare a Maranello, perché abbiamo sentito alcune cose all'inizio, tra quelle dette dal dimissionario Luca Cordero di Montezemolo, è finita un'epoca, si apre una nuova fase eccetera, non abbiamo sentito invece le parole di Marchionne, poi ce le racconta e ci racconta tutto Enrico Pagliarini. Esteban, Firenze, buongiorno. Buongiorno a te carissimo, salve, buonasera. Ciao, dimmi. Volevo fare complimenti a Conte per le palle che ha fatto tirar fuori, diciamo, alla squadra, finalmente all'Italia. E indubbiamente mancava questa grinta che non avevamo assolutamente visto negli ultimi due anni. Però è un po', diciamo, imbarazzante ricordarsi che l'allenatore era stato comunque squalificato recentemente per illecito sportivo. Questo, diciamo, è un pochino imbarazzante, sì. Ce ne scordiamo sempre, però allo stesso tempo. No, non ce ne scordiamo mai, anzi, puntualmente viene ricordato su questi schermi da questo o quell'altro ascoltatore. Mi sembra stucchevole tornare su questa vicenda, poi ci sono anche quelli che ce l'hanno con Oriali e con alcune sue vicende passate, altri ricordano un passato con qualche problema anche dell'attuale presidente federale. No, sono tutte cose che ci ricordiamo. Sono tutte cose che ci ricordiamo, peccati veri e tali o presunti, pene scontate secondo la giustizia sportiva. Guarderei il campo e transiterei oltre. Oltre questo, non sono d'accordo sul fatto che comunque la grinta sia mancata totalmente negli ultimi due anni con la nazionale di Prandelli. Secondo me è nell'ultima stagione, nell'ultimo anno, quello che ha preceduto il mondiale, che Prandelli non è riuscito a lavorare bene, probabilmente ha perso la presa sul gruppo. In precedenza io invece avevo visto, ricordo, a onor del vero, una una eccellente nazionale che in tanti abbiamo omaggiato e osannato, e in tanti abbiamo detto vabbè, però Prandelli in quel ruolo va proprio bene. Poi ci siamo resi conto nell'ultimo anno, mondiale compreso, che qualcosa che non andava bene c'era. Gianni, Roma, buongiorno. Buongiorno a lei, sono in linea? Sì, è in linea. Allora, la mia impressione è questa, ho visto ieri sera la partita, che ci sono troppi retropassaggi, specialmente quando la squadra è in attacco. Non so se è stato notato anche da voi. Troppi retropassaggi, no, non direi. Cioè, è ricerca della manovra. Spesso il retropassaggio serve anche per far uscire la squadra avversaria, eccetera, sì, eccetera. Ma quanta difficoltà c'è stata? Col pallone, qualche difficoltà, nostra, sì. Tutti passaggi trasversali, e la difficoltà è di mandare il pallone in avanti, specialmente poi quando la squadra è in attacco. Portare un pallone indietro è un segno di Ma guardi, secondo me dipende più che altro dalla velocità con cui ribalti il fronte dell'azione. Puoi anche tornare indietro per ribaltare il fronte dell'azione, se lo fai rapidamente ha un senso, se fai del possesso palla lento ne ha di meno. Non dimentichiamo nemmeno che questa è una squadra che, come ha ricordato Conte, ha lavorato insieme per 9 giorni, quindi è anche difficile trovare da subito automatismi precisi. D'altra parte mi viene in mente una frase molto interessante di Conte in una recente intervista. Ha detto: io da giocatore non avevo questi gran piedi, ero bravo magari negli inserimenti, nel colpo di testa eccetera, però spesso quando mi arrivava la palla non sapevo bene cosa fare, e allora mi affrettavo a cercare, mi scottava tra i piedi, mi affrettavo a cercare Zidane, a cercare i grandi campioni che giocavano con me. Proprio per questi miei limiti adesso cerco di dare ai miei giocatori delle soluzioni precise, schematiche, elementari. Quando ti arriva la palla fai questo, così non devi troppo pensare e non devi cercare cose più ardite. Questa è una lettura interessante tra le mille cose che ha detto Conte in questo periodo. Carlo Milano, buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione. Grazie a lei. Volevo una sua considerazione su un dubbio. Io sono juventino. Sì. E quest'estate abbiamo preso Morata, l'abbiamo pagato anche diversi milioni. Sì, qualche soldo. Qualche soldo. E Conte, che ci ha fatto vincere negli ultimi 3 anni bandiera, grande capitano e grande ringraziamento per tutto quello che ha fatto, non li ha voluti. Zaza e Mobile non li considerava giocatori da Juve. Sì. Tant'è vero che ci è consentito ad acquistare Morata. Però in questa prima convocazione ha puntato e ha fatto molto bene. Io sono estremamente soddisfatto su questi due giocatori. Non mi chieda il perché, perché non lo so. Non mi chieda il perché. Ma è strano. Cioè, è strano. Sì, l'ho detto anch'io prima. Se allora. Su tutte le cose andiamoci piano su Zaza, che comunque l'anno scorso ha fatto un buon campionato, non una stagione straordinaria, tanto che mai da nessuno era stato preso in considerazione, non mi riferisco a Prandelli eccetera, ma nemmeno dall'opinione pubblica era stato preso granché in considerazione come punta arruolabile per i mondiali. Quindi Zaza a questo, insomma, buona stagione l'anno scorso, non eccezionale, prima partita con un gol da cinema pazzesco, ora viene convocato da Conte, gioca a titolare 2 partite, ieri sera molto bene, però piano. 10 su Esharawi si è detto. Immobile, anche Immobile aspetto con grandissima curiosità, e lo ripeto, sono molto felice che sia andato al Borussia Dortmund, una squadra così importante, con un allenatore di grande carisma, con una squadra che comunque proverà a lottare per la Champions League fin dove potrà, in un campionato che sta diventando sempre più competitivo come quello tedesco. Sono felice di tutte queste cose, però anche Immobile, la stagione scorsa meravigliosa, capocannoniere con il Torino, ovvia convocazione per i mondiali, poi possiamo discutere sull'impiego che ha avuto. Stagione precedente un disastro, voglio ricordare. Quindi adesso stiamo a vedere cosa Immobile riuscirà a fare con il Borussia Dortmund, perché servono delle conferme. torno a ripetere, io sono abbastanza d'accordo con la rosa degli attaccanti che ci ha fatto prima Ciccio Graziani, per come la vedo io, uno con il talento di Balotelli definitivamente al macero non ce lo butterei. Lo vedo piuttosto male come approccio rispetto a quello che rispetto a quello che chiede Antonio Conte. Magari ci proveranno a convivere, non so se ci riusciranno. Destro mi pare abbastanza una garanzia e una certezza, il resto lo stiamo scoprendo. Qui che volevo andare, cioè a Maranello, dove c'è il nostro inviato Enrico Pagliarini, che ha seguito la conferenza stampa di addio di Montezemolo, di presentazione dell'uomo col maglione. Enrico. Esatto, l'uomo col maglione. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Ciao. È stata una conferenza stampa piuttosto lunga, molte domande, devo dire che forse a poche domande soprattutto Marchione ha risposto. Montezemolo ha parlato soprattutto del passato, ha ricordato i risultati, insomma tanti anni, questi 23 anni in Ferrari, e direi che la parola chiave è finita un'era, ed effettivamente è un'era che finisce e se ne apre un'altra. Non è ancora chiaro come si sta aprendo questa nuova era, soprattutto per la Formula 1, ma lo vedremo probabilmente nei prossimi mesi, tutto settimana. Allora, qui con me c'è Stefano Mancini, che segue la Formula 1 per la stampa, è un collega che vediamo quando siamo al paddock per seguire il mondiale di Formula 1. Allora, devo dire che soprattutto Marchione ha risposto in modo molto ermetico sulla parte soprattutto industriale, però più volte sono state fatte domande, comunque accenni all'importanza della Formula 1 per la Ferrari. Allora, volevo chiedere a Stefano se tu ti aspetti cambiamenti già, allora, sicuramente da questa stagione non ne parliamo assolutamente, ma già dalla prossima stagione possiamo aspettarci qualche cambiamento forte in Formula 1 grazie a questo cambiamento? Buongiorno innanzitutto, no, non credo che saranno dei cambiamenti, è stato cambiato moltissimo, cambiato il campo della gestione sportiva, che c'è una nuova direzione tecnica, è stata cambiata la direzione di motore, però si è cambiato il Abbiamo problemi, ma torneremo a collegarci con Maranello, dove, ripeto, c'è stato l'addio oggi di Luca di Montezemolo. Abbiamo ripescato quello che aveva detto il signor Turrini, il signor Turrini Leo, l'altro giorno, prima di Monza, nel commentare quella che era una voce ancora di addio di Montezemolo alla Ferrari. Era, se non ricordo male, il giorno di venerdì. Turrini, cosa aveva allora detto? La logica sarebbe che entro la fine dell'anno, se proprio così viene deciso nelle altissime sfere, la Ferrari abbia un nuovo presidente che presumibilmente sarà l'uomo col pullover. Sarà Marchionne. Sarà per almeno un anno Marchionne. Aveva detto questo e aveva anche detto: vedrete che Montezemolo oggi arriva qui e smentisce. Dice: non è vero niente, sono stato. Rimango in sella e non mi muovo dalla mia posizione. E così ha fatto. Nel giro di 4 giorni è cambiato il mondo rosso. Torniamo da Pagliarini, vediamo se si sente meglio. E adesso dovreste sentirci, siamo usciti. Adesso sì, adesso sì, perfetto. Perfetto, beh, siamo al Museo Ferrari, quindi la storia della Ferrari a pochi passi, a pochi metri dallo stabilimento della Ferrari. Dico una cosa sullo stabilimento e sul territorio, poi ridò la parola a Stefano Mancini della stampa sulla parte di Formula 1. No, una cosa importante che poi vedremo se si verificherà e se sarà così. Allora, Marchionne ha sottolineato più volte, ha ribadito più volte che è fuori discussione, è verrà garantita l'indipendenza della Ferrari, quindi la Ferrari rimarrà completamente a Maranello, la produzione, la progettazione, eccetera, eccetera. Questo per adesso ci dobbiamo fidare, poi vedremo se questo sarà confermato. Allora, Stefano Mancini ci stava dicendo qualche cosa su quello che ci possiamo aspettare o meno in termini di risultati sportivi in Formula 1 già dal prossimo anno, Stefano? La rivoluzione è in atto, qualche risultato lo darà, secondo me però è un processo molto lungo che richiederà più di un anno. Il gap, la differenza fondamentale nei confronti della Mercedes è che è nei motori, è stato sottovalutato, l'ha detto anche oggi Montezemolo, l'importanza di questo aspetto tecnico dei nuovi motori che sono ibridi e che hanno il turbo. La Mercedes ci ha messo molte più risorse e ha ottenuto dei risultati che abbiamo visto quest'anno. Per rimediare credo che un anno forse servirà a tornare un po' competitivi, ma almeno due anni serviranno per tornare a vincere e a pensare al mondiale. Tu ci credi a questa quello che dicevo poco fa e che è stato ribadito da Marchione più volte, cioè dell'indipendenza che ha un valore molto forte soprattutto per la Formula 1, l'indipendenza tecnologica della Ferrari? Beh, questo è un aspetto di quella Ferrari si vanta, è un aspetto di prestigio, secondo me va mantenuto. Non posso credere che la Ferrari non sappia più vincere. Anche la McLaren ha avuto dei grossi momenti di crisi, per esempio adesso si è affidata a Honda. La Ferrari continua in proprio, secondo me questo è fondamentale, perché è fondamentale il rapporto tra i risultati in pista e la sua gestione commerciale. Senti, voi che tu e comunque tutto il team dei giornalisti italiani che fa tutte le tappe del mondiale, questo cambiamento già lo attendavate, lo annusavate, o anche per voi è stata una sorpresa? A livello di presidenza, diciamo, la voce ho cominciato a sentirla solo in agosto, mi sembrava strano, poi di fatto è stato, diciamo, questo cambiamento, questo avvicendamento forse è stato anche accelerato dai cattivi risultati. Monza forse è stata la goccia. Diciamo che se ci fosse stato un disegno, Monza è stata perfetta. Sì, no? Sì, direi di sì. La rottura del motore dopo 5 anni, credo che sia stata in gara, credo che sia stata, non so, sembra una coincidenza incredibile. Sì, cioè, diciamo, Enrico, prego Carlo, sì. No, al di là di questo, posso chiedervi se, insomma, qual è la ragione, quali possono essere le ragioni vere, certamente non la rottura del motore di Monza, per le quali si è incrinato questo rapporto fiduciario che è durato per 23 anni dal 91, 23 anni nel corso dei quali la Ferrari ha vinto ma ha anche perso, e poi ha rivinto e poi ha perso di nuovo, cioè non sono stati 23 anni in cui ha vinto 23 mondiali, sono stati anche momenti estremamente difficili, e lo stesso Montezemolo lo ha ricordato prima in conferenza stampa, è stato un momento con Schumacher qua, prima ancora di cominciare a vincere, quando da Torino cominciavano ad arrivare strane voci. Poi è cominciata l'epopea di Ferrari, di Schumacher, di Todd, eccetera, eccetera. Ebbene, è solo l'assenza di risultati o c'è qualcos'altro dietro questo addio? Allora, io ti do la versione ufficiale che è stata ribadita questa mattina, poi sentiamo da Stefano Mancini che cosa si respira o si respirava anche ai paddock. Allora, Montezemolo ha detto si è chiusa un'era, ed effettivamente questo forse lo si era già visto e capito quando è stato dato il saluto e l'addio a Domenicali, diciamo che forse lì si è capito che si stava chiudendo un'era, quindi questa è stata l'unica motivazione che è stata raccontata questa mattina nella conferenza stampa. Stefano, vuoi aggiungere qualcosa? I 23 anni di Montezemolo sono stati un ciclo completo, lui ha raccolto la Ferrari che era da un punto di vista sportivo e tecnologico più o meno nelle condizioni di oggi, l'ha portata attraverso gli anni a un successo, a una serie di successi che nessuna squadra ha mai realizzato, e poi c'è stato un lento declino che è arrivato ai risultati delle ultime due stagioni decisamente pessimi e al di sotto, cioè ai livelli quelli del 91, dal 91-92 che la Ferrari non chiudeva un campionato del mondo senza una vittoria, pare che anche quest'anno sarà così, non esiste, non c'è la speranza, non ci sono le premesse per vincere una gara, e quindi questo si è unito al discorso della quotazione in borsa, per i discorsi di livello aziendale. E questo credo che abbia, insomma, il disegno si è chiuso, il ciclo si è completato. Sì, ricordiamo che il 13 ottobre, che è il giorno in cui ci sarà il vero addio di Montezemolo, dovrebbe essere il primo giorno di quotazione della nuova Fiat Chrysler, al cui interno naturalmente è molto importante la Ferrari. Quindi all'interno di questo scacchiere non va dimenticato questo tassello molto importante, ed è probabilmente uno dei motivi per cui hanno fatto anche accelerare i tempi. Sì. C'era chi pensava che magari l'addio potesse avvenire alla fine del campionato, invece sicuramente questa tappa del 13 di ottobre, in cui ci sarà una cerimonia anche molto importante negli Stati Uniti, in California, per i 60 anni della Ferrari negli Stati Uniti, quindi un momento importante, sicuramente questo è anche un modo per dare un'immagine di rilancio dell'azienda. Grazie Enrico, grazie a te, a Stefano Mancini della Stampa. Grazie a voi, buon pomeriggio. Grazie Enrico Pagliarini. Ci fermiamo per ultima pausa per la borsa, poi torniamo insieme a 800 24 00 24. Se volete parlare di Montezemolo e suo Dian Ferrari, se volete parlare di Nazionale, se volete parlare degli infortunati della Juventus, se volete parlare del weekend che ci aspetta, derby di Madrid, mica male, Arsenal-Manchester City, mica male, in Italia c'è cioè Juventus-Udinese sabato sera, ma un interessante Parma-Milan domenica sera. Io sono molto curioso di rivedere all'opera Milan di Inzaghi, magari con il primo Torres. Intanto, nelle idee, nelle intenzioni, nei sogni di tutti gli italiani, stanno spuntando, nell'immaginario collettivo, stanno spuntando qua e là stadi come funghi. Quello di Roma presentato da Pallotta e ieri quello di Genova della Sampdoria, presentato, meglio ripresentato, perché pare fosse progetto, fosse non nuovissimo, risalente a una decina di anni fa, ancora un progetto di Garrone. Morale, ieri Ferrero si è presentato con i disegnini, adesso facciamo lo stadio nuovo. Convocati. Franco Piantanida già carico per Italia-Serbia di pallavolo, ore 16:45. Viva Spagna! Beato lui. Io invece sono perplesso, ma neanche tanto, leggendo tutta questa inchiesta, peraltro ieri anticipata al Sole 24 Ore, su Schwarzer e su tutti quelli che lo hanno aiutato e che aiutavano gli atleti azzurri a doparsi. La procura di Bolzano non ha fatto altro che smascherare quanto era, insomma, visto che non siamo, non viviamo nel paese delle meraviglie e non assomigliamo neanche un po' ad Alice. Era un po' difficile credere a Schwarzer quando diceva no, nessuno sapeva, io ho preso 1500 euro, sono andato in Grecia, mi pare fosse in Grecia, in Turchia, sono andato in Turchia e da solo col mio zainetto e 1500 euro mi sono comprato le bombe, ma giuro nessuno sapeva. Invece no, molti sapevano, molti facevano, molti coprivano e molti dopavano. Ho fatto questa decisione da solo, perché se fai questa decisione devi deciderti se lo dici a qualcuno o no. Sono andato all'estero, di preciso in Turchia, da solo, e ho preso l'eritropoietina in farmacia. Sono votato come 1500 euro che ho cambiato in Turchia. E ho dato al farmacista e ho detto cosa voleva. Magheggio della coppia Piantanida Scaltretti, che hanno ripescato appunto questo file d'antan, le lacrime di Schwarzer quando era stato pizzicato. Poi sono emerse anche altre cose, come ad esempio Carolina Kostner, che adesso rischia grosso, perché anche lei aveva mentito agli ispettori della VADA per coprire, per impedire un controllo a sorpresa del suo allora bel fidanzato. Toc toc, siamo gli ispettori della VADA. No, non Schwarzer non è in casa, invece è andato a Racine, quindi non c'è, invece no, era in casa e non voleva essere controllato, quindi adesso per questa vicenda anche la Kostner rischia qualcosa. Luca da Como, buongiorno. Buongiorno Carlo. Dica. Io ritornavo sull'argomento Conte nazionale. Sono un grande stimatore di Conte, però non posso fare a meno di notare come a seconda dell'abito che si veste si cambia atteggiamento. Conte aveva a disposizione Zaza in orbita Juve all'inizio dell'estate, ma non ha chiesto a Marotta di non comprare Morata e di tenere Zaza. Questo nell'ottica della valorizzazione dei giovani del calcio italiano non mi sembra che sia un grande esempio di coerenza da parte del nostro allenatore. Sì, no, ripeto, Luca, non chiedetemi perché, cioè non chiedetemi perché hai la possibilità di prendere Zaza, Immobile, di riportarti a casa, perché sono tuoi Zaza ed Immobile, non li porti a casa, allenatore Conte. CT della Nazionale Conte, prima cosa fa? Convoca Zaza, Immobile, li fa giocare titolari in entrambe le partite. E alla Juventus con Conte allenatore viene preso Morata. Non domandatemi la ragione, perché non la so, non ho una risposta su questo. L'unico che può avere una risposta su questo è il commissario tecnico della Nazionale. Non ho neanche un'opinione su questo, vi dico la verità. Semplicemente, come voi, mi limito ad osservare questi fatti, questi dettagli. Il prossimo magari sarà Berardi, altro giocatore della Juventus, che la Juventus al momento non ha voluto. Tra l'altro, Zaza è stato, lo sapete bene, l'abbiamo già detto, è stato ceduto a titolo definitivo al Sassuolo con una formula simile a quella dell'acquisto di Morata, cioè la Juventus potrà riacquistarlo al termine della stagione per una certa cifra e quindi potrà riacquistarlo di nuovo al termine della stagione successiva, cioè avrà due finestre al termine delle prossime due stagioni, questa e quella dopo, per riacquistare Zaza per una cifra già stabilita e ovviamente crescente e superiore rispetto a quella pagata dal Sassuolo. Gino, provincia di Modena, buongiorno. Buongiorno, dottore. Buongiorno. Mi sente? Sì che la sento, come va? Buongiorno, bene, grazie. Lei, sono molto contento che avete allungato la trasmissione, che fa molto compagnia, io che lavoro in macchina. Visto. Allora, no, poi le rimando anche la canzone delle due ore, che a me piace da morire. Dica. Va bene, io l'ho chiamato perché sono amico di Simone, ho la fortuna, io sono di Sassuolo, un paese piccolo in cui i giocatori ci conosciamo. Simone tutti, Zaza, no? Lei dice. Simone. Zaza. Allora, appunto, adesso lei ha chiarito un po' la faccenda di Simone. Zaza è rimasto lui a Sassuolo per sua espressa volontà. Conte lo voleva, il Sassuolo però ha messo un paletto, tant'è vero che però la Juve, come ha detto lei, si prevale del controriscatto a 15 milioni d'euro. E 20 l'anno dopo, mi pare. E 20 l'anno dopo. Simone ha voluto rimanere a Sassuolo perché lui vuole giocare, non gli andava di andare a fare il terzo o quarto attaccante a Sassuolo. La Juventus? Lì alla Juventus, lui ha voluto rimanere qua a Sassuolo, che come le ho detto è una squadra che secondo me è il futuro attacco della Nazionale, glielo dissi quando prendemmo 7 gol dall'Inter, che ci avevate già messo i retrocessi alla prima campionato, è il futuro attacco della Nazionale dei prossimi mondiali, se ci andiamo, saranno Berardi e Zaza, oltretutto hanno un margine di miglioramento notevole. Zaza ha una forza fisica che mi ricorda ma saranno Ibrahimovic almeno io mi ricordo tantissimo Ibrahimovic in un Milan Ajax, che l'anno che vinciamo la Coppa di Campioni, perché io sono anche milanista, in finale con la Juventus, come penso, il suo e nostro presidente naturalmente. Io pensavo che il pezzo forte dell'oro dell'Ajax fosse Van der Vaart. E tutti io vedi quella prima volta che vedi davvero Ibrahimovic, ero vicino a vedere la partita, che mi regalarono un biglietto di tribuna gold, ero vicino a Confalonieri, gli dissi: presidente, dica al dottor Galliani di prendere questo qua. Mi fa: ma è un armadio, il dottor Confalonieri, mi disse. Tant'è vero che l'anno dopo l'ho preso poi il cappello alla Juventus. Allora Gino, io vorrei scritturarla, perché lei ha un sacco di amicizie influenti, e quindi se ogni tanto mi chiama, se ogni tanto mi chiama mi fa molto piacere, ci salutiamo, e poi se mi dà qualche notizia di questo tipo, allora Zaza vuole rimanere al Sassuolo, ha rifiutato la Juventus che dice voglio giocare, ed è un discorso che se è così gli fa onore, perché meglio 100 giorni in campo a Sassuolo che 200 giorni in panchina alla Juventus, questo certamente. E poi mi dice, amico di Confalonieri, vicino di Banco, se ogni tanto torna a trovare, non sto scherzando, e mi dà qualche notizia, io sono, tutti quanti siamo molto contenti. Vanno in campo 22 gladiatori, 22 ragazzi, e che vinca il migliore. E la gente, i bambini, i grandi, i nonni devono andare lì senza avere episodi che fanno rabbrividire il calcio italiano e sporcano il tifoso vero che va allo stadio per tifare per la propria squadra. Forza Samp. Qui stiamo facendo, mi sembra di stare sotto da Peppino, capisce il senso? Ramadano, segno mesta, 1-1, va bene, ci sta, buonasera a tutti, ciao Ilaria, sei la donna che fa il pallone, ma quando vuoi fare l'attrice ti faremo fare un grande film. Ciao, buonasera a tutti, buonasera a Marcheggiani e saluto Di Marzio e Boba e tutti i grandi di Sky. Scusi, ma io non capisco un caso assurdo. 844-77 72. Presidente? 22? No, presidente, allora 335. L'ho fatto. 8, me lo ripeta. 8 4 4 7 7. Inizi tu. Gran cazzo. Mi mandate un messaggino che non sento. Assolutamente sì, glielo, guardi, le faccio uno squillo muto. Corrado Tedeschi, ti do un attimo per riprenderti, eh. Ti do 30 secondi per riprenderti, intanto che c'è il traffico sul tuo presidente della tua squadra, e dopo parliamo dello stadio nuovo che tra pochi giorni vedrà la luce a Genova. Tutti convocati. Buonasera, Massimo Ferrero, neo presidente della Sampdoria. Buonasera. Buonasera. Forza Sampdoria. Sì. Sempre. Certo, certo. Dopo la Sampdoria. Sì. Niente. Niente, beh, certo. Io amo la città di Sampdoria. Non è una città. Ho comprato casa proprio nel centro di Sampdoria. Ma no, la città dove parlano un po' così, minchia. Allora, Massimo Ferrero ieri si è presentato a Bogliasco con un rotolo di fogli sotto il braccio. Era il nuovo stadio che nascerà a Genova. Corrado Tedeschi, cosa vuoi di più dalla vita? Io fossi un tifoso della Sampdoria, una cassa di Lucano. Sì, ma questi rotoli qui, chi li ha visti? Si sa da che fine hanno fatto? Perché... No, li ha illustrati. Li ha illustrati anche a Mihajlovic, però qualcuno ha fatto notare come il progetto ricalca esattamente quello sul quale lavorò nel maggio del 2004 la famiglia Garrone, senza molta fortuna, ecco. Forse l'ha trovato in qualche armadio. Sì, questo sì. Il problema, non riesco a smettere di ridere per il Ferrero originale e per Maurizio, sì, che ha già beccato in pieno un'imitazione. Perfetto, strepitosa così. E, non lo so, guarda, è un diamante grezzo Ferrero nelle mani di chi sa fare il vostro mestiere, nel senso che è un tesoro. Era un calcio che boccheggiava ormai nelle dichiarazioni per mancanza di personaggi, questo qua credo che riempirà tutto l'anno, perché sì, è meraviglioso. È già uno dei più gettonati, come ben sai, per degli ottimi più gettonati per le varie trasmissioni. Lo vogliono tutti Ferrero, ti credo. Ma io sto fatto dello stadio qui a Genova è molto difficile, perché c'è una città molto diffidente nei confronti di tutto ciò che può essere nuovo. I Garrone ci hanno provato per tutta la loro permanenza lì alla Sampdoria, ma non ci sono riusciti. Sì. Quindi non credo che sia una cosa così facile. Ferrero è molto furbo e sicuramente, però da lì a fare lo stadio io ahimè sono un po' scettico. Poi se ci riesce, Ferrero ci ha sorpresi, sì, perché io all'inizio ti dico la verità, ma poi in realtà la squadra, secondo me questa squadra qui, secondo me arriverà tra le prime 6-7, con Sinisa dall'inizio, è una buonissima squadra. Davanti al Genoa, secondo te, che l'altro giorno ha festeggiato con molta ironia, peraltro c'è Preziosi che ha detto: ma io a Ferrero la squadra non gli avrei mai venduta, questo ha detto Preziosi. Beh, e ha detto anche io voglio la metà sinistra della classifica, non si discute. Detto da lui, una squadra che non avrei mai venduta, insomma, fa un effetto strano, particolare. Strano, sì. Però è diciamo che la regola è che la Sampdoria arriva prima del Genoa. Adesso chiaramente i genovani mi odieranno, ma questi sono i numeri, poi c'è poco da vedere. La squadra è buona, Sinisa dall'inizio è una garanzia. Questo sicuro. E secondo me, tra l'altro, facevate prima questo gioco delle punte della nazionale. Io comincerei a dare un'occhiata anche a Okaka, perché giocatore con mezzi fisici straordinari, che non ha mai trovato tanta continuità, però infatti. Però da quando ce l'ha Mihajlovic, devo dire, è un giocatore bel, proprio bello da vedere, un fenomeno. Quindi però tutto da verificare. Sì, c'era anche Gabbiadini volendo, però Gabbiadini anche lui un mancino così, raramente l'ho visto, veramente strepitoso. E poi per chiudere il gioco, sai che ci metterei, io sono uno che pensa delle cose un po' bizzarre, Pelé lo prenderei e lo butterei dentro da quando la partita non riesce a sbloccarsi, perché è un gigante, che sta, uno che fa 25-26 gol in Olanda, sì. Non è una cattiva idea per niente, giocatore che è sgamato da tante esperienze all'estero, come attaccante tattico, sai che può essere un'idea. Ma d'altra parte l'hanno detto in molti, ma è possibile che non viene preso in considerazione questo che ne segna 30, va bene, campionato olandese, tu però, che sei stato buon giocatore, qualche gol lo metti ancora forse nel campionato olandese? Forse sì. Però è uno che di testa le becca tutte, è già quella una roba che a noi manca un po', no? Certamente. In certi momenti della partita. E gli altri chi sono per te? Le altre 5, uno poco, Pelé, Zaza, lo prendiamo Zaza? Ma qui, guarda, Zaza è immobile, secondo me sono tutti da verificare, perché quello che ho detto prima, insomma, abbiamo giocato contro un'Olanda che non era l'Olanda, abbiamo giocato contro la Norvegia che vabbè non è mai facile vincere, hanno fatto benino, però a livello internazionale sai, vai a giocare contro le grandi squadre, insomma, sì, questi due in esperienza internazionale zero. Non giocherebbero mai in una grande squadra questi qua, diciamoci la verità. Beh, adesso Immobile ci prova, certo. Una grande squadra come Borussia Dortmund ci prova, Zaza giocherà nel Sassuolo, è già finito in panchina domenica, ecco. Sì, lo so, è già finito in panchina, comunque, non un buon segno. Comunque scusami, torno alla Sampdoria, il derby è già cominciato comunque tra Preziosi e Ferrero, c'è un derby bello tosto, mi sa che il derby dura settimane intere, manca poco perché in realtà manca una settimana, esatto, ma insomma, durerà per tutta la settimana e poi per tutte quelle che vengono. E intanto domenica sulle maglie della tua squadra c'è uno sponsor, che è questo Sin City 3D, una donna per cui uccidere, ecco. No, è vero, allora sì, userà le maglie della Sampdoria, aveva già fatto il Chievo, era già successo, però lui lo farà stabilmente come cartellone pubblicitario, come locandine per i film in uscita in cui è coinvolto, insomma. Ma sì, ma perché no? Voglio dire, sta portando qualche leggerissima così modifica alle cose che siamo abituati a vedere, le raccattapalle che sì. Me ne fa quello. Poi domenica darà l'incasso della partita per la SLA, insomma, che sì. È già una cosina, sai. Questa a me quella roba delle secchiate d'acqua, lascerei perdere, ecco, le secchiate d'acqua, sì, Corrado. Sì, sì, senti, sì. Posso dirti la verità? Io ti voglio molto bene a salutarti, ma non credo neanche a una parola di quello che dici. Secondo me sei preoccupato e neanche pochissimo. Non sono preoccupato per quest'anno, sono preoccupato per il prossimo. Ma l'anno prossimo c'è lo stadio nuovo, non ti preoccupare, sarà una grande squadra pronta per lo stadio nuovo che è o nell'area dell'aeroporto o a Valpolcevera. Valpolcevera, certo. Sì, all'aeroporto è già stato bocciato verso lo vincolo. Non so cosa possa cambiare. Però al posto del Palasport, zona fiera, terza possibilità, al posto del Palasport, zona fiera, area valutata una 50 milioni, ma anche qui qualche problema, perché la sopraelevata di Genova verrebbe bloccata per alcuni mesi e poi bisogna girare con l'elicottero. Questo è vero, però l'idea di uno stadio proprio sul mare sarebbe una cosa veramente rivoluzionaria e bellissima. Quindi per la città non vedremo mai. Sappiamo. Non lo so. Ciao Corrado. Ciao, grazie. Fulvio, buongiorno. Sì, salve gente. Senti, io volevo riallacciare a questo discorso appunto di Ferrero, no? Ma io dico, ma le persone ne capiscono di calcio, no? Cioè i Maldini, i Baggio, che l'altro giorno l'ho visto, poverino, anche un po' appesantito. Ma ridiamo il calcio a chi ne capisce, cioè anche i Galliani stessi, no? Cioè, Galliani per carità ha dato al Milan, cioè, ma dove sono i Maldini, sono i Baggio, dove... ma anche i pari, voglio dire, a giocare, a giocare la partita, a giocare la partita della pace sono, no? Cioè, diamo il calcio a chi ne capisce, non dico ai giovani perché parliamo di 40-50 anni. Ma chi glielo deve dare il calcio, scusi? Ma anche i presidenti stessi, se vogliono investire è giusto investire, però che diano spazio a persone che capiscono di calcio. Un Ferrero non può obiettivamente stare in giro a fare... l'ha preso come protagonista, però allora, pazienza. Ferrero va lì, ci mette i suoi quattrini, perché deve dare il giocattolino a un altro? Lì, in questo momento si diverte come un pazzo, ma questo vale per molti altri presidenti. Oh, i soldi ce li metto io, ci voglio giocare un pochino, poi vediamo. Non, è chiaro che un'idea lungimirante sarebbe quella di dire: ok, io ci metto i soldini e li faccio gestire la cosa calcio a un professionista del settore. Ma quanti ne ha visti fare così? Io pochi. Grazie a Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, Claudia Schiattoni in redazione. Ci sentiamo domani alle 2. Ciao a tutti. Sono saggio. Le condizioni meteorologiche sono le peggiori di tutti i versanti del Nanga. I portatori salgono fino a metà. Significa che bisogna portarsi l'attrezzatura. Ma le vere difficoltà cominciano in alto, nella zona della morte, laddove l'ossigeno scarseggia. Mi permetta, giovanotto, cosa la spinge a salire su una delle montagne più alte del mondo se non sa se riuscirà a scendere? Per la patria? La fama? L'onore? Perché un pittore dipinge? Significa che lo scalatore sarebbe un artista e si comporta in modo egoista come un artista. È egoista quanto il suo mecenate. Se un quadro è bello, tutti ci guadagnano.